ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo ottavo. Il bancolotto di Don Crescenzo. Bianca Maria Cavalcanti aveva riletta 8 o 10 volte quella lettera prima di riporla in tasca. E mentre tutta sola nel grande nudo salone lavorava al suo merletto sul tombolo, ripensava a quello che vi era scritto, ricordandosene già delle frasi a memoria, rivedendone innanzi agli occhi le parole, riandandone nella mente tutto il significato. Così i fuselli sottili e sonanti le si arrestavano nelle mani, mentre l'anima era partita al suo sogno. La lettera era onesta e buona. Diceva che per affetto di medico e di amico le consigliava ancora una volta di levarsi da quella casa fredda e solitaria dove ella vegetava miseramente, che la pregava di degnarsi, come un'umile, una semplice offerta, d'accettare l'ospitalità in campagna, nella borgata e nella casa dove egli era nato e dove piamente viveva solo sua madre. Donna Bianca Maria Cavalcanti non doveva sdegnare questa offerta, fatta in tutta semplicità. Avrebbe potuto andare con Margherita laggiù. L'aria era buona, la campagna intorno fresca e verde, la solitudine amabile. Il dottor Amati, per il suo lavoro, non vi si poteva recare, ma era sicuro che sua madre avrebbe adorato la marchesina. Era sicuro che la marchesina si sarebbe guarita completamente laggiù, in quell'aria vivida e fortificante. Così egli scriveva il grande dottore, in quel suo stile breve, preciso, leale, simile al suo volto e come la sua voce. Ma una profonda e candida vena di sentimento correva in ogni frase e, sentendola, Bianca Maria chiudeva gli occhi per resistere a una forte emozione interiore. La lettera di Antonio Amati, letta e riletta, le si impresse nell'anima. E il ripensarvi in quella fresca serata di venerdì di marzo le faceva dare un tuffo di sangue al cuore, mentre agli occhi le salivano fiotti repressi di lacrime. E anche quella sera, ma più concitatamente del solito, verso le 8, rientrò il marchese Cavalcanti. «Ebbene? Ancora nulla?» chiese il marchese. «Di che?» disse lei, tornando in sé. «Di che? Ma della rivelazione che ti doveva fare lo spirito. Non vuoi dirla, forse? Perché? A me devi dirla. Io aspetto da te questa rivelazione.» «Mio caro padre, io non so niente», rispose ella impallidendo, ma cercando di dare fermezza alla sua voce. «Non saprò niente mai di ciò che voi immaginate.» «Io non immagino», gridò lui. «Sono verità e sono misteri della religione. Don Pasqualino è un'anima pia. Egli vede, anche tu vedresti se volessi, ma non vuoi. Di la verità. Tu ceni prima di andare a letto.» «No!» disse ella, piegando il capo, rassegnata al supplizio di quell'interrogatorio, toccando nella sua tasca la lettera di Antonio Amati. «Farò pregare Don Pasqualino», soggiunse. «L'avrai per forza la visione. Lo spirito ti si imporrà. Gli spiriti comandano, capisci? Sono padroni di questo mondo e dell'altro. L'avrai accanto a te, lo spirito, quando meno lo aspetti. Lo vedrai.» «Che Dio mi assista!» disse ella, segnandosi in preda a un tremore invincibile. «Hai paura?» chiese egli, ghignando, non vedendo più nel furore della passione il tormento della sua creatura. «Oh, sì!» ella disse fiocamente, quasi per svenire, e convulsamente strinse la onesta e affettuosa lettera di Antonio Amati, quasi volesse avere da questa la forza. Ma il marchese non le badava più. Aveva suonato un campanello e Giovanni si era presentato nella sua vecchia livrea. Guardava il suo padrone con un'occhiata incerta e gli porgeva il cappello e il bastone, quasi avesse premura di vederlo uscire quel venerdì più presto dei venerdì delle altre settimane. Ma quello che egli temeva era inevitabile, perché il marchese gli disse: «Vieni con me», dirigendosi verso la sua stanza da letto, una povera e nuda stanza, simile al resto dell'appartamento, dove Giovanni accese una misera stearica per illuminare quel colloquio. In attitudine di messa il servo si teneva ritto innanzi al padrone, il quale conservava il suo aspetto aristocratico e la nativa fierezza che neanche il vizio arrivava a dominare. Giovanni, hai denaro? Domandò con disinvoltura signorile. Il servo chinò il capo a questa domanda e, non osando di rispondere assolutamente no, tacque. Ne dovresti avere, soggiunse con una certa severità il marchese. Te ne ho dato 2 settimane fa. Hai speso tutto? Tu dilapidi il poco che mi resta. Eccellenza, venerdì portaste via quasi tutto. E quasi deve vivere. Non vorreste lasciar morire di fame la marchesina? Disse Giovanni con voce dolente. Va bene, ho inteso, interruppe il marchese, irritandosi ma celando l'agitazione. A me servono almeno 50 lire. Ho un impegno d'onore questa sera. Poi domani sera, e puntò le parole, te le rifarò. Ti darò anzi altri denari, molti denari, così non mi accuserete di lasciar morire di fame la marchesina. Vostra eccellenza è il padrone, ma se sapeste che sono questi denari, e cavò uno sdrucito portafoglio dalla tasca. Che cosa? Domandò il marchese fissando con gli occhi divoratori il portafogli. Niente, eccellenza. E rispettosamente consegnò una carta da 50 al padrone. Né aveva fatto in modo che il marchese non vedesse un'altra carta simile, ma il vecchio signore non osò chiederla in quel momento. Va pure, egli disse al servo, che uscì. E si aggirava per la stanza impaziente. Dopo suonò nuovamente il campanello 2 volte. Margherita si presentò con la stessa aria esitante, quasi tremante del marito, e il vecchio nobile, il discendente di Guido Cavalcanti e di 10 generazioni di gentiluomini, si piegò a una furberia da ciarlatano. Margherita, sai se Bianca Maria ha denaro? Domandò distrattamente. E chi glielo avrebbe dato? Quelle poche lire che le regala Suor Maria degli Angeli e il suo padrino a Natale, ella ne fece elemosine. Credevo, disse lui infilandosi il soprabito. Sono molto imbarazzato. Ho da pagare un debito stasera e mi immaginavo che Bianca Maria avrebbe tratto suo padre di pena. Sono molto seccato, molto. Tu forse hai denaro, Margherita? Io? Disse quella, non osando negare per il rispetto e la paura che le ispirava il padrone. Tu? Puoi darmi denaro? Te lo restituisco domani sera. Veramente, replicò ella, avevo qualche denaro, ma volevo comprare un vestito alla marchesina. Vostra eccellenza non se ne accorge, ma a 20 anni, bella come una regina, la mia padrona non ha che 2 abiti, da 2 anni, uno per l'estate e uno per l'inverno, e neppure lei stessa se ne accorge, la povera anima di Dio. Avevo pensato io di comperarglielo, poi vostra eccellenza mi avrebbe dato il denaro a piacer suo. Senti, Margherita, senti, dammi questi 4 quattrini stasera e domani sera, te lo prometto innanzi a Dio, Bianca Maria avrà denaro per 10 vestiti, non per uno. Amen, disse rassegnatamente e dolorosamente Margherita, non potendo resistere all'emozione che vi era nella voce del padrone. E cavando dal petto una borsetta di seta, da un batuffolo di carte, ne staccò una di 100 lire. Egli la prese e la pose subito nel suo portamonete e uscì, dicendo con un'allegria feroce e con un'intonazione bizzarra di sicurezza: a domani sera. Qualcuno lo aspettava, passeggiando su e giù innanzi al portone. Era Don Pasqualino De Feo l'assistito. Avete la moneta? Domandò Don Pasqualino abbassando le palpebre quasi a celare il lampo dei suoi occhi accesi. Sì, quanto è? Si deve far l'elemosina per 4 messe, in 4 parrocchie, domani mattina. Faremo 5 lire la messa. Io devo passare la notte in preghiere. Mi fu imposto dallo spirito, facendomi chiudere nella chiesa del grande San Pasquale a mezzanotte. Ho promesso 10 lire di regalia al sagrestano per farmi chiudere in chiesa. Non sarebbe permesso a nessuno. Abbiamo detto di accendere 4 candele innanzi all'altare di San Benedetto, di cui ricorre la festa domani. 10 lire, quindi 40, sì, 40 lire basteranno. E per voi? Chiese, dopo aver contate le 40 lire nelle mani di Don Pasqualino. Sapete che non ho bisogno di niente, disse quello schivandosi. Si lasciarono dopo che il marchese ebbe strette 2 dita molli e umide che Don Pasqualino gli stendeva. De Feo risalì verso Tarsia, Cavalcanti discese verso Toledo. Andava al bancolotto numero 177, all'angolo del Vico Nunzio, dove era tenitore del banco il bel Don Crescenzo dalla barba castana e dove giocavano Cavalcanti e i suoi amici. Quando il marchese Cavalcanti giunse, verso le 9:30, la bottega era piena di gente che giocava. Il gioco comincia debolmente la mattina del venerdì, nel pomeriggio va crescendo e nella sera diventa una fiumana. Il marchese di Formosa fece un cenno e Don Crescenzo, premurosamente, aprì la porticina del banco e gli porse una sedia. Il venerdì sera il marchese Cavalcanti lo passava lì, in un cantuccio, seduto, guardando tutta la gente che giocava, volendo eccitarsi in quello spettacolo ed eccitandosi fino a un grado forte di esaltazione. Egli aveva in tasca la sua giocata, coi denari, ma non la faceva mai appena entrato. Delibava questa voluttà lungamente, guardandola deliberare di un tratto a 100 e 100 altri. Folta di gente la bottega, vi si entrava dalle due porte spalancate, una in via Toledo, una nel vicoletto del Nunzio, e la fiumana si avvolgeva e si svolgeva continuamente, venendo a battere contro quel bancone di legno unto da tanti contatti umani. Malgrado l'ora tarda, la gente continuava a ingombrare il bancolotto di Don Crescenzo, a cui in quell'ultimo venerdì di marzo, per un riflusso di febbre viziosa, sarebbe toccato un grosso introito. Uno di quegli impeti furiosi, collettivi, dell'inguaribile malore che consuma tutte le forze della fortuna napoletana. Intanto Formosa non si era deciso a giocare, con quella specie di transazione col tempo che fanno tutti i grandi amanti e i grandi appassionati. Sulla soglia della bottega, da un canto per far passare la gente, egli discorreva con Trifari e Colaneri, che neppure volevano andar via, malgrado avessero esaurito il piacere della giocata, stando lì per godere di quella luce, di quel caldo, di quelle persone, di quei denari che fluivano, di quei polizzini che partivano, pegni di fortuna, pegni di ricchezza, fantasticando in quale di essi vi fosse la verità. Quale? Quale? Ecco il dubbio tremendo e dolce, l'ignoto immenso e ardente, il mistero che vi sorride attraverso i suoi veli che non si sollevano. Dopo aver fatto una passeggiatina per Toledo, non potendo resistere, l'avvocato Ambrogio Marzano era ritornato anch'esso e si era unito al gruppetto dei suoi amici cabalisti che confabulavano fittamente. Incapace di non parlare del suo numero, del suo fulmine, aveva detto il 35, il famoso 35, tanto che Colaneri e Trifari erano rientrati per giocarlo. E lui, Marzano, era rientrato per giocare il 63 datogli da Colaneri. No, Formosa non giocava ancora, ma il termine della voluttà si approssimava ed egli sentiva l'imminenza del gran momento e mentalmente, in uno dei suoi fervidi slanci mistici, pregava il Signore, la Madonna di casa Cavalcanti, Lecce Homo, che egli venerava nella sua cappella gentilizia, perché lo illuminassero, lo ispirassero, perché gli facessero l'unica, la suprema grazia che egli chiedeva da anni. Di nuovo i suoi amici, dopo aver bevuto questo altro piccolo sorso di piacere, erano usciti fuori e parlottavano vivacemente di numeri, eccitandosi in quelle grandi ombre che oramai regnavano su Toledo, spezzato da quel quadrato luminoso che gittava sul marciapiede la luce del bancolotto. In quest'ora videro entrare anche Cesare Fragalà. Dopo aver chiusa la bottega, il gaio pasticcere andava sempre a passare un paio di orette al suo circolo, dove giocava al domino, con altri commercianti di coloniali, di panni, di agrumi, di olio, di baccalà, arrischiando un soldo a ogni partita. Il venerdì sera anche giocava quelle lunghe partite, ma distratto, un po' nervoso attraverso la sua inesauribile giocondità giovanile, e scappava via un po' più presto per andare dal suo caro Don Crescenzo a fare la sua grande giocata settimanale. Veramente al suo ardore di giocatore si mescolava una certa ritrosia, come un piccolo senso di rimorso, una vergogna di buttare il suo denaro in quella maniera, e perciò arrivava al bancolotto molto tardi, quando vi era minor gente che lo vedesse, che lo conoscesse. E quella sera, al saluto di Formosa, rimase interdetto. Gli seccava di essere stato veduto dal suo vicino. Poi si strinse nelle spalle e, fermatosi presso il suo carissimo amico Don Crescenzo, che continuava a scrivere, piegando la sua bella barba nera sul petto e facendo una quantità di volatine eleganti con la penna, si mise a dettargli dei numeri, a lungo, mostrando i suoi denti bianchi in un sorriso. Don Crescenzo scriveva imperturbabile. Da 6 mesi che Cesarino Fragalà giocava al suo bancolotto, ogni settimana le somme arrischiate venivano crescendo. E in quel fluire di numeri dettati, Don Crescenzo riconosceva, con la sua osservazione particolare, i numeri dati dall'assistito, cioè per simbolo, e che ognuno aveva interpretati a suo modo. Tanto che Formosa, Colaneri, Trifari, Marzano, Ninetto Costa e Cesare Fragalà, e quanti prendevano la sorte dalle parole di Don Pasqualino, giocavano numeri diversi. Molti numeri, così che ognuno di loro ogni tanto finiva per fare qualche piccolo pericolosissimo guadagno. 15 o 20 scudi sopra un numero situato, 600 lire sopra un ambo. Raramente, è vero, ma tanto da attizzare fatalmente la loro passione e da renderli schiavi di tutte le nebulose frasi di Don Pasqualino. Per il che, con un lieve sorriso, mentre faceva la somma delle giocate, Don Crescenzo disse: «Voi pure siete cliente di Pasqualino De Feo?» «Lo conoscete?» disse ansiosamente Cesare Fragalà. «Siamo amici», mormorò Don Crescenzo. «Sai i numeri, non è vero?» chiese Cesarino con un tremito nella gola. «Spesso». «Come spesso?» «Quando il cliente è in grazia di Dio», rispose il postiere enigmaticamente. E volendo finire il discorso con un atto gentile, consegnando i polizzini, disse al negoziante di generi coloniali: 540. Quello pagò flemmaticamente, con la tranquillità del negoziante, senza che la sua fisonomia si turbasse. Ma quando fu uscito dal bancolotto sulla porta, cadde il suo sorriso e si rammentò di aver fatto in quel giorno il suo primo debito usuraio. Si rammentò di aver dato fondo ai cassetti della bottega, levandone tutto l'introito per formare quella grossa cifra che aveva giocata. Fu per distrarsi da quei dolorosi pentimenti che si unì al gruppo dei cabalisti. All'1, dopo mezzanotte, fermi innanzi alla bottega del gioco, essi non sentivano né l'ora che passava, né la notte avanzante, né l'umidità penetrante, ardendo del loro continuo fuoco interiore che nella notte dal venerdì al sabato divampava. E lungamente, interrompendosi, ricominciavano 1000 volte le stesse storie, riscaldandosi, eccitandosi, guardandosi in faccia con gli occhi stralunati e vividi di fluido, quasi fossero allucinati. Cesarino Fragalà ascoltava, cercando di prendere la medesima febbre, ma non riuscendovi. Era uno spirito debole, nient'altro, ma senza pazzie, senza nervosità. E quando tutti enumeravano le ragioni per cui giocavano, la tale necessità materiale o morale, il tale bisogno urgente, impellente, a cui soltanto il lotto poteva dare un appagamento, egli ascoltava con malinconia. E a un certo punto egli potette dire: «Oh, io ho bisogno di 60.000 lire per aprire bottega verso San Ferdinando e fare la dote alla mia Agnesina». Una infinita tristezza lo teneva. Buono, onesto, incapace di mentire a sua moglie per qualunque cosa. Egli la ingannava da molti mesi. Le toglieva di mano i libri di cassa, che ella spesso si fermava a sfogliare, cercava di nasconderle il suo vizio con una cura di tutte le ore, smarrendo così il buon umore e la quiete. «Se non fosse questo magazzino, se non fosse per Agnesina», mormorava in preda a un rammarico inconsolabile. Adesso, verso 1:30 di notte, veniva il momento di chiudere il bancolotto, poiché la clientela si era fatta più rada, e il marchese di Formosa, deciso alla fine, entrò nella bottega del gioco a giocare. Con la nota in mano, dicendo lentamente i numeri a Don Crescenzo, un lieve tremito agitava la sua voce e gli occhi fissavano la carta, dove aveva scritto la lunga filza delle cifre, quasi per una subitanea emozione di piacere. La bottega del gioco oramai diventava deserta e gli amici cabalisti, Colaneri, Trifari, Marzano, menan cos'eco anche Cesarino Fragalà, che si sentiva infelicissimo, si erano messi dietro al marchese di Formosa, ascoltando i numeri, battendo le palpebre per approvazione o crollando il capo in segno di sfiducia, infine assistendo a quella non breve operazione del gioco di Cavalcanti, con la gravità dei preti che assistono il vescovo nel pontificale. Dietro il banco di legno, Don Baldassarre, il vecchio decrepito, Don Checchino dalla faccia smorta, stavano immobili, con gli occhi socchiusi, stanchi morti di quella sgobbata di 10 ore, pensando all'altra sgobbata dell'indomani, dalle 7 all'1, nel grande ardore dell'ultima ora. Solo Don Crescenzo conservava la sua disinvoltura e la placida beatitudine del napoletano, che ha il suo piatto di maccheroni assicurato e che serenamente assiste alla corsa affannosa degli altri dietro il fantastico piatto di maccheroni o dietro molti fantastici piatti di maccheroni nel grande, immaginoso paese di Cuccagna. Carlo Cavalcanti, infervorato, giocava, tanto che al pagare vi mise le lire che il suo cameriere Giovanni s'era fatto prestare dalla usuraia Concetta, le lire che la sua cameriera Margherita s'era fatta prestare dall'usuraio Don Gennaro Parascandolo e 70 lire che aveva avute dal Monte di Pietà, impegnando 2 antichi e artistici candelabri di bronzo dorato, ritrovato in una stanza di Vecchiumi, a casa Cavalcanti, in tutto 220 lire. E rimase pallido, scontento, malinconico, a un tratto sfiduciato sul valore di certi numeri, dolente di non aver potuto arrischiare di più su certi altri e infine disperato di non poter giocare tutti gli altri, tutti quelli che erano nei suoi calcoli. Così come l'amante, dopo aver lungamente desiderato un colloquio con l'amata, quando l'ha ottenuto ne vede fuggire i momenti con rapidità crudele e dopo resta profondamente addolorato per non aver detto una parola di quello che sentiva alla donna sua. Quel vecchio, in cui l'età non arrivava a domare la furiosa passione, piegava il capo, subitamente accasciato come se avesse vissuto 10 anni in un minuto e lento, tacito, uscì con gli altri, lenti e muti, per la via buia, andandosene a casa sua. Avevano freddo, tutti, in quell'inoltrata ora notturna. Li vinceva un brivido sottile, per cui si stringevano nei soprabiti e abbassavano la testa senza parlarsi fra di loro. Così arrivarono in piazza Dante, sotto il palazzo Rossi già Cavalcanti, e il discorso cabalistico ricominciò. 2 o 3 volte andarono su e giù nella piazza, mentre la candida e severa statua del poeta parea li sdegnasse con le sue bianche occhiaie vuote. Conducevano seco il povero Cesarino Fragalà, corroso adesso da un pentimento invincibile per aver buttato via tanto denaro, il denaro della sua famiglia, quello della sua Agnesina. Ma era inutile, egli giocava, perché era una creatura debole e allegra, cui pungeva un po' di ambizione commerciale. Non sarebbe mai stato un cabalista. La pazzia negli altri lo sorprendeva dolorosamente, ma non gli si comunicava. Pure restava con loro quasi non avesse la forza di rientrare a casa per coricarsi accanto a sua moglie con quel rimorso di aver gittato 500 lire. E ogni tanto, distraendosi, si metteva a guardare le ombre della grande piazza, fissamente, quasi si vedesse apparire qualche visione straziante. A un certo punto Marzano salutò e si allontanò verso l'arco di Porta Medina, abitando egli a via Tribunali. Ma gli altri continuarono ad andare su e giù, farneticando in quell'oscurità, in quel freddo che non sentivano più. E più fremente di tutti il marchese Carlo Cavalcanti, dagli occhi scintillanti, la cui figura si ergeva nell'oscurità forte e salda, simile a quella di un uomo trentenne. Poi, a un certo punto, si licenziarono Colaneri e Trifari, che abitavano ambedue in una povera casa del Cavone. Allora Formosa continuò monologando, dirigendo la parola a Cesare Fragalà, o alle tenebre, o a se stesso. E piano piano discendevano verso Toledo, un'altra volta, quando una tranquilla voce li salutò. «Buonanotte a questi miei signori!» «Buonanotte, Don Crescenzo!» disse il marchese. «Avete chiuso, eh? Buona giornata!» 32.527, disse d'un fiato il tenitore del banco. Vi fu un silenzio. «Voi non giocate, Don Crescenzo?» domandò Cesarino Fragalà. «No, mai! Buonanotte!» Buonanotte! Egli si allontanò sveltamente. Essi, visto che il bancolotto era chiuso oramai, tornarono indietro pesantemente. E fu con un sospiro che bussarono pianamente al portone del palazzo. Rincresceva loro di tornare a casa. Si licenziarono al primo piano con una stretta di mano e un'occhiata di allucinati. Teresa Saponangelo ha letto Il paese di Cuccagna di Matilde Serao, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.